Yeah. Et la fraîcheur de l'ombre.

casa più sempre vivat. Vivat a più sempre vivat a cus. Vivat a più sempre vivat. Nefito a promitto te o risalto. Chi, moi, te ne sei seul. Thank you. See you. troverò. Yeah. monti lo fisse e che l'orgue risuona. Devenni il Signor di le mie ante fa so mangere le gloire fior exalto Signor. Devenni il Signor e felexis posa si vanna benis fallo benis fallo Signor. Timone, amor, timone, o viene tutto te. Per vera mia fede se sei donne mariage. Se poco a pastor sei poto da menage, ti ha lascio ti ha, ne mua, te lo ve più jamais on supporte o to. Oh! Thank you.